Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Se ci state ascoltando alle 20.45, ovviamente vi auguro una buona serata. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri e lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Il 12 febbraio del 2004 fu trovato riverso sul suo letto, in condizioni brutte da vedere perché era riverso in una pozzanghera di sangue sul pavimento, uno dei più famosi urologi italiani, Attilio Manca, una promessa oltretutto della chirurgia italiana, ma una promessa oramai già mantenuta. Tanto è vero che dal 2002 questo giovane chirurgo operava ed era già vice primario nell'ospedale di Viterbo. Voi vi chiederete, ma perché parliamo adesso della morte di un urologo avvenuta nel 12 febbraio del 2004, vale a dire 5 anni fa? I motivi ci sono. Ci sono perché la Procura della Repubblica di Viterbo potrebbe presto giungere alla terza archiviazione di questo che è stato definito un suicidio. Anzi, è stato archiviato già per ben due volte come un suicidio. C'è però chi non si rassegna a questa morte molto strana e adesso cercheremo di capire il perché. Chi non si rassegna ovviamente sono i familiari di Attilio Manca, la mamma e i fratelli. E noi vogliamo parlarne oggi, ma è soltanto la prima di una serie di puntate che dedicheremo all'argomento, proprio con il fratello di Attilio Manca, Gianluca Manca, un avvocato, che è anche pubblico ministero onorario presso la Corte di Appello di Patti. Ci troviamo in provincia di Messina. Buongiorno, dottor Manca. Buongiorno. Allora, come ho detto ai miei radioascoltatori, noi faremo una serie di puntate. La prima puntata la chiamerei emozionale, o se preferisce familiare, perché è appunto il colloquio diretto con chi ha visto la vita di un giovane fratello venir meno 5 anni fa. Può, dottor Manca, dire sinteticamente perché quel suicidio appare così strano ad un uomo di legge come lei? E anche direi alla sentire comune in un certo senso. Basta andare infatti a leggere ciò che riporta il vostro sito, quello che avete dedicato a vostro fratello, quindi attiliomanca.it, per rendersi conto di una serie di incredibili avvenimenti. Prego, dottor Manca. Brevemente io posso riassumere quali sono gli elementi più essenziali che ci fanno ravvisare che si tratti di omicidio. Innanzitutto anche da come è stato trovato Attilio, consideri che a noi, sia a me quanto anche ai miei genitori, ci dissero dapprima che Attilio era morto per aver avuto un aneurisma cerebrale, mentre in realtà non si trattava di un aneurisma cerebrale, ma a quanto poi seppimo successivamente, Attilio era morto perché per un cocktail di farmaci e di sostanze stupefacenti che sono state rinvenute all'interno del suo organismo. Ecco, ricordiamo che suo fratello non era un tossicodipendente, perché nel suo corpo sono stati trovati i principi attivi dell'eroina, oltre a contenuti abbastanza potenti di sedativi. Di sedativi e anche di alcol, tra l'altro. Ecco. Tra l'altro una cosa molto strana è che, come ha detto lei, Attilio non era tossicodipendente e tra l'altro consideri che lui operava quasi gran parte della settimana, cioè dal lunedì al giovedì, fatta eccezione di alcuni giorni che non ricordo quali fossero, penso 2 della settimana, Attilio era sempre in sala operatoria dalle 8 del mattino fino al pomeriggio inoltrato. Quindi ecco, una persona che comunque avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, era molto improbabile che comunque potesse tenere ferma la propria mano e addirittura che anche l'ospedale Belcolle potesse fare affidamento su una persona che comunque fosse tossicodipendente. Certo. Quindi, ecco, io perché, dottor Manca, dicevo sinteticamente, per un semplice motivo, che sul sito appunto consideri che abbiamo trovato che mio fratello, la cosa più strana è che Attilio era un mancino, prevalentemente mancino. Attilio operava addirittura anche con la sinistra. La cosa strana è che quegli unici due buchi che sono stati trovati all'interno del corpo di Attilio sono sul braccio sinistro. Ecco, allora vi potete trovare sul sito una serie infinite di stranezze, tra le quali anche quella di un setto nasale rotto, segno di una colluttazione o forse di un'uccisione, di un omicidio avvenuto in precedenza, perché stranamente poi la stanza era in perfetto ordine. Ma io perché dico che potete leggere sul sito? Perché sul sito troverete, e vi invito a leggere, una cosa straordinaria. Attilio Manca era tra i pochi chirurghi in Italia, parliamo di anni fa, di una decina di anni fa, esperto in laparoscopia, segnatamente per la prostata. Aveva studiato in Francia, aveva affinato le sue tecniche in Francia, era uno dei migliori allievi che avevamo in Italia. E perché questo è importante? Perché veniamo a parlarne oggi e perché è importante non far cadere il silenzio su questa vicenda? Perché Attilio Manca nell'ottobre del 2003 si reca in Francia a Marsiglia, e contemporaneamente chi c'è in quel periodo a Marsiglia? Anche una persona molto educata, molto in gamba, un vanto per l'Italia, si chiama Bernardo Provenzano, che come ricorderete fu operato sotto falso nome con una serie di complicità incredibili, perché altrimenti uno non parte probabilmente dal Messinese o comunque dall'Italia per arrivare lì e operarsi. Ebbene, i destini di Attilio Manca e di Bernardo Provenzano sembrano incrociarsi. Dico sembrano perché dobbiamo rendere atto a che cosa? Degli atti ufficiali che parlano di archiviazione, ma dobbiamo anche rendere atto invece all'intelligenza della famiglia che vuole perseguire la ricerca della verità. Allora Manca, suo fratello e Bernardo Provenzano erano contemporaneamente nello stesso periodo a Marsiglia, così? Consideri che il setto nasale, così come ha detto lei, è stato trovato totalmente deviato e addirittura anche il suo volto tumefatto. E la cosa perché a noi sembra strana? Perché all'inizio le persone che rinvenirono il cadavere di Attilio ci dissero che il setto nasale era stato deviato in quanto era caduto su un telecomando. Attilio cade su un letto matrimoniale e la cosa strana è che comunque il telecomando fu trovato non sotto il suo volto, bensì sull'avambraccio, addirittura, ecco, però, con i tasti segnati sull'avambraccio. Certo, ecco, io però direi di andare a questa fatidica data dell'ottobre 2003 in cui il destino di suo fratello sembra incrociarsi con quello di Provenzano. Certo, consideri che mio fratello fece una telefonata che tra l'altro non è stata mai trovata o non si è voluta trovare, le spiego subito. Mio fratello parlò con i miei genitori, credo con mia madre, dicendole che si trovava sulla Costa Azzurra e che praticamente da lì a breve, perché si trovava lì ad effettuare un intervento, non dicendo però ai miei genitori ovviamente a chi doveva effettuare questo intervento. Certo. La cosa strana è che i miei genitori chiesero al procuratore che si occupa del caso di Attilio se era possibile trovare questa telefonata. Non solo non rinvenirono questa telefonata, ma addirittura questa telefonata è sparita e addirittura consideri che dissero ai miei genitori che anche l'ultima telefonata, quella fatta da mio fratello qualche giorno prima che lui morisse, con l'11 febbraio, quando Attilio è stato di nuovo cadavere, gli dissero che non si trovava. Ecco, io la interrompo un attimo. C'era stata confermata anche l'ultima, proprio quella dell'11 di febbraio, dallo stesso dirigente della squadra mobile di Viterbo. Ecco, io la interrompo un attimo, dottor Manca, per chiederle questo. Intanto nel sito, nella storia di Attilio Manca e della famiglia Manca, c'è anche un'onesta autocritica, perché troverete che a un certo punto entra in ballo un personaggio, un cugino dei fratelli Manca, che si chiama Ugo Manca, che ha precedenti penali e una storia, diciamo così, anche abbastanza pesante di contiguità con ambienti mafiosi, malavitosi. Quindi onore anche al senso di autocritica della famiglia Manca. Ma le chiedo questo, Manca, ma ammesso e non concesso che suo fratello abbia operato Bernardo Provenzano, ma quali segreti doveva custodire per giungere poi ad una morte così cruenta? Io credo che segreti penso che Attilio non custodisse dei segreti. Io suppongo che probabilmente Attilio abbia capito quale fosse la rete che proteggeva Bernardo Provenzano e che partiva proprio dal nostro paese, che è quello proprio di Barcellona Pozzo di Gotto, fino ad arrivare proprio alle istituzioni politiche molto grosse di quel periodo, e che probabilmente alcune di esse fanno ancora parte, diciamo, delle cosiddette istituzioni deviate. Quindi, volente o nolente, era entrato in contatto con nomi, magari, o persone, o comunque aveva capito il clima, diciamo così, delle rete di protezione di cui aveva goduto. Probabilmente lui all'inizio non capì che si trattasse di Bernardo Provenzano. Probabilmente, forse, o sentendolo in televisione o addirittura anche alla radio, lui capì che la persona che stava operando poteva trattarsi presumibilmente di Bernardo Provenzano. Un segreto, una serie di segreti che per Cosa Nostra, ammesso e non concesso, ripeto, che si tratti di omicidio, dovevano essere portati nella tomba, e che quindi Attilio Manca si sarebbe portato con quella tragica morte. Io ringrazio Gianluca Manca, fratello di Attilio Manca, do appuntamento a domani ai radioascoltatori, perché proseguiremo in questa storia ascoltando la voce dell'avvocato Repici, avvocato di famiglia della famiglia Manca, ma non ci fermeremo sicuramente neppure con la sua testimonianza. Grazie regia a Valeria Bernardi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.